Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì con le notizie sul mondo dell'autotrasporto e della logistica. In apertura torniamo sull'interruzione della ferrovia lungo il corridoio Reno-Alpi, quindi sul corridoio strategico dai porti del nord Europa a quelli della Liguria. La riapertura, e questa è la notizia, della linea avverrà il 2 ottobre, quindi 5 giorni prima rispetto a quanto previsto, lo hanno annunciato le ferrovie tedesche. Ricordo, il tracciato è interrotto dal 12 agosto all'altezza di Rastatt in seguito ad uno smottamento. Certamente si tratta di una buona notizia, al di là dell'anticipo vuol dire infatti che è scongiurato il rischio di un prolungamento della chiusura, un'ipotesi temuta dal nostro sistema logistico eppure da una fetta importante di quello produttivo, visto che lungo il corridoio intermodale Reno-Alpi transita una fetta consistente del nostro export verso il cuore dell'Europa. Attualmente almeno 2 convogli su 3 di fatto sono stati soppressi, gli altri vengono deviati via Svizzera o tramite il Brennero, altra merce è trasferita via gomma. Ritardi, disagi e danni ingenti, come vi abbiamo già raccontato nelle scorse settimane, e chiaramente ci ritorneremo. Ora voltiamo pagina e affrontiamo un argomento che riguarda gli autotrasportatori e in generale chi trascorre ore e ore al volante, magari anche di sera e di notte. La sicurezza per sé e per gli altri dipende innanzitutto dalla concentrazione e quindi dalle condizioni psicofisiche. Su questo fronte il primo nemico per chi guida è, si sa, il sonno, ma non basta ritenere di aver riposato il giusto per sentirsi tranquilli. C'è una patologia, a lungo un po' sottovalutata, che si chiama sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Ne è affetto il 10% della popolazione adulta, ma la percentuale sale decisamente per determinate categorie, in primis proprio gli autisti professionali. Il fattore di rischio principale sta negli squilibri dei ritmi dei tempi di riposo che diventano irregolari e insufficienti. Se affetti da questa malattia, la possibilità di provocare un incidente è 4 volte superiore alla media generale. E ancora in Italia, ogni anno gli incidenti indotti dalla sindrome delle apnee ostruttive del sonno causano oltre 200 morti e 12.000 feriti. Per sensibilizzare gli autotrasportatori di fronte a questa malattia, all'inizio dell'estate ha preso il via la campagna Non morire di sonno, promossa dall'Auto Brennero e dal Centro di Medicina del Sonno dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona. Le sere di mercoledì, giovedì e venerdì all'autoporto Sadobre, nei pressi di Vipiteno, un'equipe medica offre la possibilità di sottoporsi ad un check-up. Nei primi 2 mesi di controlli sono stati coinvolti circa 300 autotrasportatori, l'11% dei quali ha chiesto di essere sottoposto alla polisonnografia, cioè l'esame attraverso il quale viene diagnosticata la malattia. E da Gianluca Rossato, responsabile del Centro di Medicina del Sonno di Negrar e presidente di Informa Sonno, sentiamo cosa è emerso. Dei soggetti che si sono fermati ad effettuare la polisonnografia, come immaginavamo, abbiamo una percentuale di soggetti positivi, cioè con la malattia della sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno, intorno al 60-70% finora. Dato significativo, diciamo molto più di quella che è la normale prevalenza nella categoria, perché ovviamente il soggetto che si ferma ed è interessato a fare durante una normale sosta un esame è perché ovviamente percepisce di avere quei sintomi, è un soggetto che quindi è già ha un'alta probabilità di avere la patologia. Diciamo che normalmente in uno studio di popolazione noi sappiamo che comunque la prevalenza dei camionisti, dell'apnea del sonno negli autotrasportatori è all'incirca del 20-30% comunque. Come abbiamo sentito, quindi, dati che devono mettere in guardia, ma capiamo più nel dettaglio cos'è la sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Le apnee ostruttive del sonno è una malattia che è caratterizzata dalle interruzioni involontarie del respiro durante la notte causate da un collasso delle vie aeree superiori. Il paziente ovviamente non è a conoscenza perché sta dormendo di queste apnee. Le apnee creano una frammentazione del sonno che è poi causa della sonnolenza diurna, che è la causa dell'aumento dell'incidentalità dei soggetti affetti da apnea del sonno, che hanno un aumento del 400% circa del rischio di avere incidenti. Questa patologia, diciamo così, non provoca solo sonno improvviso, induce anche altre conseguenze importanti. Sentiamo ancora il dottor Gianluca Rossato dell'ospedale di Negrar. Le apnee del sonno, causando una perdita di ossigeno nel nostro organismo, creano una catena di conseguenze chiamate complicanze cardiovascolari che vanno dall'ictus cerebrale, l'infarto cardiaco, l'ipertensione arteriosa, soprattutto notturno, fibrillazione atriale, diabete mellito e sindrome metabolica. Quindi l'apnea del sonno è una malattia che diciamo poco conosciuta, e adesso infatti la campagna che noi stiamo facendo è per aumentare la sensibilità di tutti, non solo gli autotrasportatori, ma di tutta la popolazione sulla patologia, perché le complicanze sono legate al giorno successivo, che è la sonnolenza e gli incidenti stradali, ma anche a lungo termine con le patologie cardiovascolari che prima abbiamo detto. A Sadovre sull'Auto Brennero i check-up proseguiranno almeno fino a metà ottobre. Nella logistica, seppur con molte zone d'ombra a partire proprio dall'autotrasporto, la ripresa è confermata da dati e proiezioni. Secondo le previsioni dell'Ufficio Studi della Federazione Anima Confindustria, il settore della logistica e della movimentazione merci chiuderà il 2017 con un valore della produzione in crescita del 3,9% a oltre 5 miliardi di euro. Uno studio Eurostat ci dice invece che tra i primi 20 porti dell'Unione Europea per merci movimentate figurano due scali italiani, Trieste e Genova. In testa alla classifica Rotterdam con 424 milioni di tonnellate di merci, seguono Anversa e Amburgo, Trieste undicesima con 50 milioni di tonnellate, Genova tredicesima con 45 milioni. Negli ultimi mesi il mercato dei veicoli industriali ha subito una battuta d'arresto, lo conferma il rapporto statistico di Anfia. Ancora più pesante, e ce lo dice Unrae, l'arretramento nel comparto dei veicoli commerciali, cioè sotto le 3 tonnellate e mezza. A luglio meno 16,3%, ad agosto meno 22,6%. Notizie positive, torniamo a dati Anfia, arrivano invece dal mercato degli autobus. Ad agosto l'incremento delle immatricolazioni è stato del 31,3%. Ancora più significativi i dati dei primi 8 mesi del 2017, l'aumento è stato infatti del 43%. E di trasporto passeggeri e sostenibilità si è parlato la scorsa settimana a Pesaro, nel corso della 2 giorni organizzata da Rete Mobilità Nuova. Ai lavori ha partecipato anche ANAV, l'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori. Per Giuseppe Vinella, presidente di ANAV, uno dei fattori fondamentali per trasporti più efficienti e sostenibili è la velocità commerciale dei mezzi, oggi troppo bassa. Ascoltiamolo. All'interno delle città urbane, come ovviamente da tempo se ne parla, fino a che c'è congestione, i nostri mezzi riescono a dare una qualità del servizio sempre meno corrispondente a quello che è il presupposto che consente alla clientela poi di preferire un autobus pubblico ad pubblico privato rispetto all'autovettura privata. C'è poi la questione del rinnovo delle flotte, altro elemento centrale per la sostenibilità. Come abbiamo sentito, dal mercato arrivano segnali confortanti dopo anni altrettanto bui. Positività che nell'ultimo anno, cioè in questo 2017, ci sono stati provvedimenti, anzi già dal 2016 a dire la verità, ci sono stati provvedimenti rilevanti da parte dello Stato italiano nel rifinanziare le flotte con una vetustà mezzi che si riportano indietro fino agli anni, diciamo, fine 80, inizi 90, come sostituzione, quindi parliamo di 24, 25 anni, anche 30 anni di mezzi, di età media dei mezzi che circola tuttora sul nostro territorio, e che con questo piano di finanziabilità auspicabilmente, probabilmente, se non ci sono ricorsi e se le gare si completano, 2018-2019 potremmo vedere sulle nostre strade dei mezzi confacenti a quelle che sono gli standard europei. In chiusura, due flash dall'Europa. In Francia, contro la nuova legge sul lavoro, gli autotrasportatori sono pronti a salire sulle barricate. Uno sciopero ad oltranza è stato proclamato a partire da lunedì prossimo. In Svizzera, dopo 50 anni, il Senato federale ha abolito il divieto di servire bevande alcoliche nelle stazioni di servizio autostradali. Due, in sostanza, i motivi: il provvedimento non incideva più di tanto sulla sicurezza, visto che chi vuole infrangere la legge può rifornirsi prima di imboccare l'autostrada, e poi ci sono mere ragioni commerciali. I gestori degli autogrill si sentivano discriminati rispetto agli altri pubblici esercenti. Hashtag Autotrasporti oggi finisce qui, il programma torna lunedì. Nel frattempo vi ricordo l'appuntamento del sabato con Container, l'approfondimento su questi temi curato da Massimo De Donato, in onda alle 13:15. Da Andrea Ferro grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.